la manifestazione è cominciata da circa tre quarti d'ora. La testa del corteo deve ancora arrivare alla baita. La gente è tantissima, in questo momento stiamo facendo una stradina in un bosco, quindi dare dei numeri mi sembra assolutamente in questo momento impossibile, perché da dove sono io non, cioè, è una strada tutta curva che va verso la baita. La manifestazione alla partenza era molto, molto partecipata, molto grossa, molto bella. Ieri c'è stata una bella assemblea al campeggio dove si sono decise le modalità, la partecipazione. La valle al momento risponde in maniera attesa, cioè piena di valigiani, ecco, non è una manifestazione, è una manifestazione di popolo, via. Senti, in relazione a queste, io le ho definite poc'anzi per radio, provocazioni del ministro degli interni, che contrariamente a quelli che dovrebbero essere i suoi compiti, i suoi doveri, alimenta la tensione e fomenta quella vera, la violenza quella vera. Ecco, qual è, che clima si respira? Cosa rispondete rispetto a queste dichiarazioni del ministro degli interni di ieri? Ma il ministro degli interni rispondiamo in maniera molto tranquilla, è una manifestazione assolutamente serena, assolutamente determinata. Di gente che si vuole riprendere i suoi territori, al ministro Maroni non rispondiamo a parole, ma rispondiamo con la manifestazione di oggi. Certo, ma il suo intento a me pare quello, insomma, sperimentato in più occasioni, quello di dividere, diciamo così, la mobilitazione fra buoni e cattivi, colpire gli uni e, diciamo, indicare gli altri come esempio. Questo è un meccanismo che non ha funzionato finora lì, insomma, in Val di Susa. È un meccanismo che non funziona neanche oggi al momento, poi io prevedo che non funziona neanche oggi. Tentativi ci sono stati da parte del ministro dell'interno, ma anche da parte del Partito di Repubblica, giornalaccio assolutamente che in questi giorni ha dato il meglio di sé. Interessato, giornalaccio interessato. Al giornalaccio caso interessato, sì. La valle e tutto il movimento che qua risponde con quello che ha fatto in questo mese e mezzo, in questi 15 anni, ecco. Allarghiamoci, dai. No, mi piace sentirti ridere, questo evocare la risata, speriamo che li seppellisca una volta per tutte, ma di questo sì, sarà una risata che li seppellirà, esatto. L'elicottero tira qua sopra, ma siamo tranquilli, sereni. Vabbè. Senti, la marcia prevede un punto d'arrivo vicino al cantiere, e adesso mi dicevi che stavate camminando per i boschi. Al momento è ancora una strada, è sterrata, e stiamo arrivando alla baita, che è al presidio che era stato costruito dai compagni accusati poi di abusivismo edilizio. Da lì si proseguirà per sentieri fino ad arrivare all'area del campeggio, al comune di Chiavonte. Senti, invece, per quanto riguarda gli arrivi, diciamo, per i partecipanti della manifestazione, anche su questo ci arrivavano voci di controlli abbastanza serrati, preventivi, dicono loro, rispetto a che non si capisce, però ci confermi questa cosa? C'è qualche problema per i compagni che arrivavano lì per manifestare? C'è stato, oppure che? Questa mattina sono salito ieri, non ho trovato niente. Questa mattina sì, probabilmente ci sono un po' di controlli, ma niente di grave. Vabbè, niente di grave al momento, niente di grave. D'accordo. Senti, allora io non so se qui i compagni vogliono fare qualche domanda, se no ti ringrazierei per questa prima corrispondenza, rimanderei a una successiva nella quale, se vorrai raccontarci un po' il corteo così come si dispiega, no? Con una testa, un centro. Ecco, magari rimandiamola fra 20 minuti, mezz'ora. D'accordo, sì, anche perché più o meno penso che per tra mezz'ora arriveremo alla baita, e quindi anche numericamente si potrà essere dire qualcosa, anche se dare dei numeri a me personalmente non piace. Dico semplicemente che è una manifestazione molto grossa. È una bella manifestazione. I numeri li daranno gli altri. Va benissimo, giunga a te e a tutti gli altri il saluto da questa radio, e ci sentiamo dopo. Ok, ciao, a dopo. Ciao, a dopo, a dopo.